Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, dedichiamo questa puntata ai libri di management e iniziamo con un libro di un giapponese, Hidesaburo Kagishima, Toilet Cleaning Management, che è un po' come dire il management che deve cominciare dalle pulizie dei bagni, e non a caso il sottotitolo è una dirompente strategia manageriale. Ne parliamo con Rosario Manisera. Buonasera dottor Manisera. Buonasera. Rosario Manisera è presidente dell'Associazione Culturale Italo-Giapponese Fuji e ha tradotto e curato questo libro. E innanzitutto, allora, dottor Manisera, chi è Hidesaburo Kagishima? È un imprenditore, diciamo, della vecchia generazione, essendo nato nel 1933 e quindi ha vissuto anche il dramma della guerra e dei bombardamenti a Tokyo durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui è andato, poi sfollato, nelle montagne che circondavano Tokyo, e lì si è formato e da lì ha preso questa forma mentis particolare che l'ha accompagnato durante tutta la sua vita di imprenditore poi di successo, perché la sua azienda Yellow Hat, che si occupa di aftermarket nel campo dell'automobile, ha più di 500 esercizi commerciali in Giappone e altrettanti nel resto dell'Asia. Ecco, quindi un imprenditore di successo, ma come si spiega appunto questa logica della pulizia che si ripercorre in tutto il libro? A metà del libro si legge: quando si comincia a fare pulizia, inspiegabilmente cambia l'atmosfera in azienda, cambia la consapevolezza e la sensibilità del personale aziendale, le lamentele e le insoddisfazioni di ogni giorno si trasformano in un senso di gratitudine. È così importante la pulizia? Ecco, la pulizia per questo imprenditore, ma non solo per lui, adesso anche il mondo accademico in Giappone, tra l'altro sta pubblicando vari libri sull'argomento, cosa strana perché in genere si parte dalla teoria e poi si passa alla prassi, in questo caso è la prassi che precede la teoria. Bene, il senso della pulizia, la realtà della pulizia per questo imprenditore è veramente alla base di tutta la gestione dell'azienda. Lui attraverso l'esperienza si è reso conto che non solo il clima cambia, ma cambiano i risultati nell'azienda, anche i risultati economici. Spesso io mi reco in Giappone portando con me degli imprenditori, dei manager per visitare delle aziende giapponesi. Noi ce ne siamo accorti anche in altre aziende, come attraverso la pulizia, anche in una fabbrica, veramente cambiano i risultati economici, perché i macchinari hanno una vita più lunga, la qualità migliora, migliora la sicurezza, ma migliora soprattutto il rapporto tra le persone che vedono negli altri non più dei rivali con cui competere per avere magari il premio alla fine dell'anno, ma come dei compagni di squadra appartenenti allo stesso gruppo, per cui si lavora per lo stesso obiettivo e il successo di uno diventa il successo di tutto. Ecco, quindi la pulizia è un po' la metafora dell'attenzione all'altro, di lavorare per creare un ambiente che sia confortevole per tutti e in cui ognuno possa valorizzare le proprie competenze. Dove si lavora soprattutto anche meglio, e attualmente questo lo si comincia un po' a percepire anche in Occidente veramente. Quando un'azienda va a visitare per esempio i suoi fornitori per valutarli e poi accettarli o meno come fornitori, si comincia proprio dall'esaminare la pulizia, dalla pulizia dei bagni, perché vuol dire, se i bagni sono puliti, che si ha cura degli altri, si avrà cura anche della qualità dei prodotti, si tiene conto anche di quelli che verranno dopo e così via. Questo libro, Toilet Cleaning Management, ricordo di Hidesaburo Kagishima, verrà presentato nei prossimi giorni a Milano. L'autore verrà in Italia presso Solving Efeso in via Vincenzo Monti 47 il 21 maggio. Poi Kagishima sarà presente in altre manifestazioni, dottor Manisera? Sì, insieme a Yoshihito Tanaka. Verrà qui a Brescia il 23 presso l'Università di Ingegneria, nell'Aula Magna della Facoltà di Medicina questa volta. Noi terremo un convegno proprio sul management by cleaning, cioè si può impostare tutto il management aziendale attraverso e sulla base della pulizia. E Kagishima presenterà la sua esperienza, come la presenterà anche il dottor Tanaka, e faranno vedere concretamente come soprattutto nei momenti di crisi questo valore li ha aiutati, perché secondo Kagishima la pulizia in se stessa una forza prorompente, per cui lo stato d'animo delle persone, per esempio, quelle che fanno pulizia, si rasserena e si avvertono una forte appartenenza al gruppo. Poi l'ambiente di lavoro che diventa pulito rasserena anche l'animo delle altre persone che vanno a visitare l'azienda. Quindi nasce il lavoro di squadra, sorge l'entusiasmo, si rende attivo e dinamico il luogo di lavoro e quindi emergono delle capacità potenziali nelle persone, nell'ambiente, negli impianti stessi. Grazie a dottor Rosario Manisera, che ricordo è presidente dell'Associazione Culturale Italo-Giapponese, che ha curato e tradotto il libro Toilet Cleaning Management di Hidesaburo Kagiyama, edito da Guerini Associati. Sono 260 pagine per 18,50 euro. E dopo aver parlato del management alla giapponese, parliamo del management all'italiana e lo facciamo con Paolo Iacci. Buonasera, dottor Iacci. Buonasera. Paolo Iacci è presidente di BCC Credito Consumo, professore a contratto della LIUC di Castellanza e vicepresidente dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale, e ha scritto un libro, Breviario Semiserio per Manager Pensanti. Quindi sono due aggettivi, semiserio e pensanti, che sembrano essere in contraddizione, ed è veramente questo libro un breviario, un abbecedario, come si diceva una volta, perché va dalla A alla Z, parlando appunto di molte caratteristiche che dovrebbero essere quelle dei manager. Come è nato questo libro, dottor Iacci? È nato dalla considerazione che si può parlare di una cosa molto seria, drammaticamente seria come la crisi, anche sorridendo. Questo libro contiene una tesi molto forte, e cioè che si sta perdendo la cultura del lavoro, il senso del lavoro, tutto sembra banalizzato, sembra che questa società ci proponga dei modelli dove la regola è tanti soldi maledetti subito e si ha valore come persone soltanto se si guadagna molto, indipendentemente dal come. E invece noi crediamo che per uscire dalla crisi bisogna rimettere al centro la cultura del lavoro e rimettere al centro le persone. E questo lo si può fare anche sorridendo su tutti i difetti che questa crisi sta evidenziando in maniera molto forte. Ecco, questo libro parte da A come autorità, passa attraverso il benessere, la carriera, l'etica, la finanza, l'informazione, il linguaggio, e arriva fino alla vocazione, allo zero, e ogni capitolo comincia con un aneddoto, una storiella, quasi una barzelletta, se non sono in rituale parlando così. Ecco, come nascono queste storie, questi modi di agganciare la realtà, dottor Iacci? Ma innanzitutto la barzelletta, la storiella divertente è propria della cultura, se vogliamo la barzelletta ha avuto la sua massima espressione iniziale proprio col Rinascimento, ed è un modo per svelare in maniera irrituale ma molto forte, molto immediata, tutte le cose che non vanno, i nostri difetti e i difetti delle organizzazioni per cui lavoriamo. Nasce un po' da questa considerazione, dal fatto che si può parlare di cose importanti anche in maniera molto diretta e lo si può fare anche sorridendo. Anzi, questo è un libro molto serio che si legge ridendo molto. Cercare di andare un po' controcorrente, cercando di ridare alle cose il loro peso reale e alla vita la chance di riprendersi le sue rivincite, insomma un modo di essere felici nella nostra diversità, un modo di riflettere in maniera leggera, ma su cose terribilmente concrete e terribilmente difficili anche da vivere. Però questa leggerezza in fondo aiuta anche a prendere le cose nella loro giusta dimensione, nel giusto modo di prenderle. Quindi, dottor Iacci, per concludere. Cerchiamo di essere seri quando davvero ne vale la pena, ma cerchiamo anche di sorridere, perché questo è un modo più vero, più immediato di ridare senso alle cose. Grazie a dottor Paolo Iacci, lo ricordo, presidente di BCC Credito Consumo e professore alla LIUC di Castellanza, vicepresidente dell'Associazione Italiana di Direzione del Personale, ha messo insieme questo breviario semiserio per manager pensanti, edito da Guerini e Associati, sono 120 pagine per 12,50 euro. Grazie professor Iacci, grazie a quanti ci hanno ascoltato, vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e buona serata.